Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema controverso, quello del rapporto tra potere e intellettuali, un rapporto che può assumere anche delle forme paradossali e parossistiche, come documentato nel libro di cui adesso vi parlo, di cui è autrice Mirella Serri, che è una studiosa di letteratura e di giornalismo. Il libro si intitola Sorvegliati speciali, gli intellettuali spiati dai gendarmi, 1945-1980, pubblicato da Longanesi, 282 pagine, 18 euro. Questo libro della Serri documenta il lunghissimo controllo cui è stato regolarmente sottoposto tutto il mondo della cultura italiana. Attori, registi, artisti, scrittori, nessuno sfuggiva al controllo di polizia e carabinieri. Oggi noi tanto ci lamentiamo delle intercettazioni telefoniche. Qui venivano non intercettati ma spiati direttamente, magari quando questi intellettuali partecipavano a delle riunioni pubbliche, a delle riunioni di circoli o dei comizi, e appunto c'era un poliziotto, un carabiniere che attentamente annotava quello che veniva detto, e tutte queste annotazioni sono confluiti poi in grandi faldoni che fanno parte dell'archivio di Stato. Adesso questi faldoni sono stati aperti alla consultazione e quindi il risultato di questo studio è quello contenuto nel libro della Serri. Il libro si arresta al 1980 proprio perché successivamente a quella data i dati non sono ancora disponibili per gli studiosi, quindi non sappiamo se questa pratica sia continuata oltre il 1980, magari anche oggi ci sono delle forze dell'ordine che sorvegliano quello che dicono gli intellettuali. Dal libro della Serri esce ovviamente uno spaccato strabiliante dell'Italia di quegli anni e particolarmente degli anni della Guerra Fredda. Veniamo a conoscere episodi spesso poco noti, delle posizioni curiose, degli aneddoti e degli episodi segreti. Per esempio, apprendiamo che il Partito Comunista negli anni 50 si finanziava anche attraverso la vendita di lamette da barba, che erano chiamate la lama del lavoratore, oppure la vendita di insetticidi e disinfettanti, che infatti ebbero un'impennata nei comuni rossi, tanto da insospettire gli occhiuti gendarmi che indagarono su queste procedure. Ma sentiamo qualche considerazione su questo libro dall'autrice. Buongiorno a Mirella Serri. Buongiorno. Mirella Serri, lei ha scritto questo libro sui controlli ai quali venivano sottoposti per molti anni gli intellettuali italiani. Ecco, questa abitudine, era un'abitudine solo italiana o si inseriva in un clima più generalizzato, a suo parere? Beh, sicuramente si inserisce in un clima più generalizzato, perché questo libro, che si chiama Sorvegliati speciali, gli intellettuali spiati dai gendarmi, va dal 1945 al 1980. Quindi, come dire, negli anni della Guerra Fredda, quindi dal 1946-47 in poi, ovviamente il clima era generale. Basta pensare, non so, all'America, al maccartismo, alla persecuzione che c'è stata anche in America degli intellettuali e così via. La cosa poi più sorprendente, se vogliamo, è che questo clima e questo controllo non solo si estende fino anche agli anni 70, ma addirittura fino agli anni 80. E perché mi sono fermata agli anni 80? Mi sono fermata agli anni 80 perché dopo i documenti sono secretati, però se vogliamo fare un'ipotesi, un'illazione, forse Sorvegliati speciali lo siamo ancora. Ecco. Chissà come verrà commentata questa trasmissione allora. Ecco, la trasmissione forse non è controllata, nel senso che mentre sotto il fascismo venivano controllate, appunto, pedinate, eccetera, eccetera, le singole persone, in questo caso sono tutte relazioni delle questure, delle polizie che seguono intellettuali. Ci sono tutti gli intellettuali più famosi, quelli che io dico che vanno da Gassman a Gad Lerner, cioè ci sono anche gli intellettuali che si affacciano alla ribalta alla fine degli anni 70, c'è Visconti, Edoardo De Filippo, storici come, non so, Giovanni De Luna, Guido Crains, Paolo Flores d'Arcais e poi ancora Marco Bellocchio, tutto il gruppo dei Quaderni Piacentini, e poi Elsa Morante, Moravia, Marai, eccetera eccetera. Pensiamoli tutti. Ecco, dicevo, mentre sotto il fascismo la sorveglianza era ad persona, ma qui in realtà sono le relazioni di infiltrati che si trovano in pubblici dibattiti, in assemblee, in circoli di partito, in raduni di diciamo anche di conferenze e così via. E quindi la cosa curiosa è che non solo ci sono poliziotti che spiano appunto gli intellettuali, quello che raccontano, non so, magari commentando il Risorgimento, oppure non so, addirittura caldeggiando negli anni 60, facendo riunioni per dire che nelle scuole italiane forse è meglio sostituire le lezioni di lingua e letteratura russa a quella inglese, perché diciamo ci sarà un'espansione verso est e così via. Ma dicevo, non solo sono poliziotti che presenziano queste assemblee, che a volte come quella che ho citato sono anche, presentano anche dei toni di ingenuità e anche così, che oggi ci fanno sorridere, ma ci sono anche altri intellettuali che redigono verbali, note informative, e questo lo si capisce anche spesso dal tono come sono scritti, dal linguaggio, e anche perché, dicevo, sono relazioni che investono riunioni a volte anche piccolissime, di 10 persone, 15, insomma ci si conosceva tutti. Ecco, ma il fatto che questa caccia alle streghe, chiamiamola così, sia durata tanto a lungo, da cosa dipendeva? Dalla pigrizia dei burocrati che avevano cominciato e nessuno li fermò, o c'era un impulso politico dei vari governi per continuare in quest'opera? Sì, lei ha perfettamente ragione, c'è un impulso politico. Poi ricordiamoci che se io parlo degli anni 80, voglio dire che parlo anche degli anni 70 e poi degli anni 80, quindi c'è il 68 di mezzo, ma non c'entra, non sono allertati dal 68, perché è tutto un continuum, non è che negli anni 60, come dire, il flusso della sorveglianza si interrompe e poi si risveglia quando, non so, quando ci sono i movimenti di piazza, oppure con l'inizio del movimento del 68, e quindi c'è più paura che gli intellettuali possano avere più presa e fare propaganda politica. No, io direi che è veramente un flusso che non si interrompe mai, quindi era e forse è, dicevo, è una consuetudine. Ecco, questo viaggio nell'intellettualità diventa anche un viaggio negli orientamenti degli intellettuali italiani. Lei scrive, per esempio, parla di subalternità intellettuale alle politiche di sinistra per tanti anni, quindi questo suo libro è anche un modo per leggere il comportamento degli intellettuali italiani da un altro punto di vista. Sì, ecco, potremmo vedere un po' una guardia e ladri, nel senso che da una parte appunto abbiamo il comportamento delle guardie e poi dall'altra vediamo quelli che sono non i ladri ma i controllati, no? E quindi emergono anche tutte le varie prese di posizioni, anche, dicevo prima, parlavo di ingenuità da parte a volte dei poliziotti, ma ingenuità a volte anche da parte degli intellettuali, oppure a volte no, anche desiderio di rimanere assolutamente barricati, diciamo, nelle proprie convinzioni, per cui ci sono tutte le note sulle riunioni di Italia URSS, l'associazione appunto dei rapporti dell'Italia con l'Unione Sovietica, e quindi vediamo che sono pochissime le persone che prendono posizioni polemiche. Per esempio, quando arriva, non so, il dottor Zhivago in Italia, il discusso romanzo di Pasternak, che in Unione Sovietica non venne pubblicato e che era messo al bando. Ecco, voglio dire, per esempio lì non ci sono, da parte di famosissimi intellettuali come Moravia e tanti altri, non ci sono delle prese di posizione polemiche, però qualche volta qualche voce di dissenso si fa sentire, ecco, però sono rare. Per esempio, ecco, ho trovato una cosa molto singolare, che entra in una discussione polemicamente con l'Unione Sovietica la moglie di Sandro Pertini, del nostro Presidente della Repubblica, Carla Voltolina, che si ribella, ha delle prese di posizione di Italia URSS. Ecco, però la sua, per quello che ho trovato io, una voce isolata. Bene, ringraziamo Mirella Serri, autrice di Sorvegliati Speciali. Buona domenica. Uno degli intellettuali il cui nome ricorre più frequentemente in questi mattinali, chiamiamoli così, è Carlo Levi, l'autore di un libro di culto negli anni 50, cioè Cristo si è fermato a Eboli, e uno degli intellettuali che spingevano proprio per l'insegnamento del russo, per riprendere la storia di cui parlava Mirella Serri. Carlo Levi lo ritroviamo nel libro di un grande giornalista, Giovanni Russo, intitolato Carlo Levi segreto, e pubblicato da Dalai, 152 pagine, 16,50 €. Con Levi Russo ha avuto una lunga frequentazione e qui raccoglie gli scritti dedicati al pittore, scrittore, intellettuale, e lo fa, spiega, per tre ragioni. Innanzitutto perché Carlo Levi viene considerato da Russo molto attuale, in secondo luogo perché è stato un protagonista di grandi lotte civili, sociali e culturali alle quali lo stesso Russo ha partecipato, e il terzo motivo è l'amicizia con Rocco Scotellaro. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Abbiamo parlato di Carlo Levi. Allora vi propongo adesso un autore che gli fu contemporaneo, che era anche lui molto sensibile alle tematiche del Mezzogiorno, è precisamente Carlo Alianello, vissuto tra il 1901 e il 1981, che scrisse fra gli anni 40 e 60 due romanzi di grande successo all'epoca, L'Alfiere prima e poi L'eredità della Priora. In mezzo a questi due libri pubblicò un altro libro che adesso viene riproposto da H, si intitola Soldati del Re, 202 pagine, 13 euro, che è una sorta di polittico narrativo, perché ci sono in tre episodi che non sono stati ambientati come L'Alfiere nell'epoca garibaldina, che Alianello lesse con una certa criticità, ma risalendo indietro nel tempo, esattamente nel periodo della Restaurazione. E quindi, mentre nell'Alfiere appunto Alianello aveva dato prova della cosiddetta controstoria, come scrive Giuseppe Lupo nella prefazione a questo libro, ossia a una rivisitazione dei fatti storici che ne rovescia le linee interpretative, qui invece in questo libro Alianello vuole fare riferimento alle questioni della libertà e dell'autodeterminazione, come dice sempre Lupo, che la Repubblica di Napoli del 1799 aveva sollevato. Emerge da questo libro una particolare visione della storia all'interno dell'orientamento cristiano dello scrittore. In un clima invece decisamente risorgimentale ci porta il libro di Emilia Sarogni intitolato Carlo Pisacane, L'amore, l'Italia e il socialismo, pubblicato da Edizioni Spartaco, 192 pagine, 15 euro. Si parte anche qui da Napoli, perché Carlo Pisacane era nato appunto lì a Napoli nel 1818 da una famiglia nobile ma decaduta. E nel libro troviamo la storia della sua vita, ma soprattutto di una città, di un regno, di un periodo che ci permette di comprendere come si svilupparono molti moti risorgimentali e soprattutto il pensiero e l'azione di Pisacane, che già nel 1847 si era rifugiato all'estero in Inghilterra per ragioni sentimentali. Qui in Inghilterra e poi in Francia Pisacane approfondirà la questione nazionale e fino alla famosa spedizione, quella fallita a Sapri, che sarà fatale nel 1857, al termine della quale Pisacane, pare suicidandosi, si troverà la morte. Ma Pisacane, oltre che un patriota, fu anche significativo per l'impulso che diede al pensiero socialista. Infatti scrive l'autrice che Pisacane vede lontano, teme che il capitale sia destinato a dominare sempre più l'umanità, poiché la proprietà fondiaria sarà sostituita dal sistema industriale. Coglie molto bene, aggiunge la scrittrice, il problema della concentrazione del capitale, temendo per la piccola e media impresa. Ma precisa infine Sarogni, Pisacane si afferma come un antesignano della parte più alta del pensiero socialista, ma non assolutamente come un marxista, fautore del capitalismo di Stato e della dittatura del proletariato. Rimane sempre presente nei suoi scritti l'alto ideale della libertà. E questo libro ce ne dà la testimonianza. Veniamo adesso all'Italia di oggi, però rifacendoci ancora a Carlo Levi, perché a un'espressione dello scrittore si ispira un libro di taglio invece settentrionalista che adesso vi presento. L'espressione di Levi era Luigini e contadini. Levi infatti divideva il popolo italiano in queste due categorie. I Luigini sono coloro che godono di protezioni corporative, che appartengono a ceti parassitari, e contadini sono tutti gli altri, tutti quelli che si devono dare da fare sul mercato, nella concorrenza, nella competizione per poter campare. E appunto in questo modo si intitola il libro che adesso vi presento. L'autore è un autore collettivo, quindi è scritto Gabrio Casati, ma in realtà dietro ci sono diversi autori. Allora, Gabrio Casati, autore, titolo Luigini contro contadini, il lato oscuro della questione settentrionale, pubblicato da Guerini Associati, 160 pagine, 16,50 euro. La divisione tra Luigini e contadini continua a paralizzare l'Italia, secondo Gabrio Casati, e si riflette nel conflitto tra nord e sud. Proprio nel Mezzogiorno, secondo quest'autore, la presenza di un tasso di parassitismo è molto forte, il tasso di parassitismo inteso come la capacità di succhiare risorse pubbliche e di produrre una scarsissima quantità di reddito attraverso le attività di mercato. In pratica, allora, dice Gabrio Casati, la Lombardia cede quasi 25 miliardi di euro al sud, il Veneto 8,8 miliardi di euro e l'Emilia 8. Quindi questo trasferimento forzoso di risorse produce un'autentica minaccia minaccia alla unità nazionale, perché questo tipo di sistema non può reggere, secondo l'autore. Non si può più parlare in questo caso di solidarietà, ma, scrive Gabriel Casati, di autentica spoliazione. Per di più, queste regioni, le regioni del nord, devono fare i conti appunto con tutti i vincoli derivanti da un'economia chiusa e protetta, che scarica i costi sotto forme di tassi, di ritardi, di burocrazia, appunto sui contadini, cioè quelli che devono lavorare stando sul mercato. Insomma, questo libro prefigura i tratti di una situazione veramente esplosiva, certamente da un'angolatura diversa, non quella dei forconi, ma chissà da qualche altra rivolta che potrebbe divampare nel nord. E sul tema del divario tra nord e sud vi segnalo il libro di Vittorio Daniele Paolo Malanima, il primo è un economista e secondo uno storico dell'economia, che si intitola Il divario nord e sud in Italia 1861-2011, pubblicato da Rubbettino, 244 pagine, 15 euro. Questo libro non vuole indagare sulle ragioni del divario, ma semplicemente, spiegano gli autori, vuole raccontare come sono andate le cose, ricostruendo i cambiamenti avvenuti nella produzione, nel lavoro e nella produttività. In realtà poi i due autori mostrano di indicare qualche ragione su questo divario. Una delle ragioni più potenti è la geografia, secondo Daniele Malanima, ossia la lontananza del sud dai paesi sviluppati, aggravata dalla mancanza di infrastrutture. E naturalmente non è soltanto questo che spiega il fatto che il sud si sviluppi meno del nord, ma certamente l'insieme di questo con gli altri fattori, ossia il crescente divario di produttività, la persistente mancanza di infrastrutture, la presenza di criminalità, le carenze socio-istituzionali, le politiche economiche non sempre efficienti, spiegano per quali ragioni appunto non scattino processi di sviluppo anche nel mezzogiorno. Non è detto che nel futuro non possano cambiare le condizioni. Infatti, scrivono i due autori, l'avvento di paesi come l'Africa del Nord, il Medio Oriente, la Cina e l'India, che stanno modificando radicalmente gli equilibri economico e politici, potrebbero far transitare flussi di modernità e di sviluppo attraverso il Mezzogiorno, che potrebbe essere maggiormente coinvolto da questa trasformazione. Un'altra testimonianza del Mezzogiorno è il libro di Piercamillo Falasca, Terroni 2.0, Cambiare il Sud vivendo altrove, pubblicato da Rubbettino, 102 pagine, 11 euro. Questo libro rappresenta una grande manifestazione di fiducia da parte di un giovane meridionale, poco più che trentenne, il quale sprona i suoi coetanei emigrati al nord a impegnarsi per le terre di origine. Non è necessario che essi tornino, spiega, ma è importante che assumano la consapevolezza dell'esigenza di darsi da fare. Falasca parla con molti di questi ragazzi e ne trae una conclusione, appunto, che per salvare il sud è necessario che i Terroni 2.0 e i loro coetanei di tutta Italia alzino lo sguardo oltre gli steccati della paura, così scrive, offrendo alla società una mentalità globale, una maggiore fiducia nel merito e nella competizione. La diaspora dei cervelli, aggiunge, non è un dramma se l'alternativa è lasciare tanti talenti marcire a spasso, molto meglio che volino lontano. Essi possono essere una risorsa strategica molto più utile anche a distanza. Perciò, dice Falasca, anziché buttare tanti soldi pubblici nella proliferazione di sedi e facoltà universitarie di scarsa qualità, sarebbe più utile che Stato e Regioni investissero quelle risorse per offrire borse di studio e nelle migliori università del mondo ai loro giovani, magari condizionando i fondi a una qualche forma diretta o indiretta di restituzione. Esemplare del libro l'apologo conclusivo, tratto dal blog di Antonio Menna, nel quale si prefigura il destino di due ragazzi che vogliono costruire dei computer a Napoli e, infatti, non a caso il pezzo si intitola Se Steve fosse nato in provincia di Napoli. Si racconta di questi due ragazzi che cercano, è una storia vera, di montare dei computer in un garage, ma sono ben presto bloccati dalla burocrazia e dai vincoli. Arrivano i vigili a controllare che ci siano i permessi e devono lasciare una mancia perché i vigili non facciano qualche denuncia. Poi arriva l'ASL che controlla che ci sia il bagno, poi l'ispettorato del lavoro e poi finalmente, quando le cose sembrano avviarsi, e qui leggo da questo blog, un giorno bussano al garage e la camorra: sappiamo che state guadagnando, dovete fare un regalo ai ragazzi che stanno in galera. Come sarebbe? Pagate, è meglio per voi. E qui naturalmente finisce l'avventura dei due mancati Steve Jobs. Ultimi arrivi. Vi segnalo tre libri che fanno un piccolo percorso di educazione civica, perché sono stati scritti da tre presidenti della Repubblica. Il primo è Sandro Pertini, La politica delle mani pulite, curato da Mario Almerighi, Chiare lettere, 100 pagine, 7 euro, che contiene una serie di interventi, interviste e scritti del politico socialista, anche anteriori al suo settennato al Quirinale, che offrono la possibilità di ricordare un presidente della Repubblica così popolare. L'altro presidente della Repubblica è Carlo Azeglio Ciampi, di cui esce A un giovane italiano, è pubblicato da Rizzoli, 154 pagine, 14 euro, che sono delle riflessioni ispirate alle recenti letture dell'anziano presidente della Repubblica, che cerca anche di ricavare qualche filo per la trama di un futuro possibile. E infine il presidente in carica, Giorgio Napolitano, che ha pubblicato Una e Indivisibile, riflessioni sui 150 anni della nostra storia, pubblicato ancora da Rizzoli, 178 pagine, 15 euro, nel quale vengono raccolti gli interventi principali svolti da Napolitano in occasione delle celebrazioni del 150enario. Nella sua prefazione Napolitano sottolinea di aver raggiunto la consapevolezza che si sia trattato, questo anno che è passato, di un risveglio di coscienza unitaria nazionale, le cui tracce restano e i cui frutti sono ancora largamente da cogliere. E a questo punto il confettino. Concludiamo con un libro di ambientazione meridionale, si intitola La casa sull'altura, è di Nino De Vita, illustrato da Simone Massi, pubblicato da Orecchio Cervo, 16,50 euro. Questo è un racconto in versi, di cui poi troviamo anche il testo in siciliano. Un bambino prende possesso temporaneo di una casa colonica ormai distrutta e popolata soltanto da animali, e in qualche modo ristabilisce, come nota Goffredo Fofi nella sua postfazione, l'equilibrio del mondo contadino, quello di cui appunto Carlo Levi, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, fu uno dei cantori. E con questo ringrazio Luca Cremonese e Stefania Tagliaferri in redazione, Filippo Regi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.